Wale yo shina wana hie yo tana wana. Ciò. Non speravi più di tornare a vincere, di saper convivere con tutto ciò. Quando tutto sembra sicuro e sembra andare secondo i piani, d'un tratto appare così chiaro che nulla è nelle nostre mani. Sembra sicuro e non va mai secondo i piani, un tratto appare così chiaro che nulla è nelle nostre mani. Secondo i piedi.